24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa, un saluto da Paola Nania. Tra gli argomenti di oggi c'è la mobilitazione che inizia in alcuni paesi europei contro la repressione che da settimane va avanti in Siria. Secondo le organizzazioni umanitarie, le vittime sarebbero più di 450. C'è poi il fronte libico, con l'Italia che ha dato il via libera a un maggior coinvolgimento nelle operazioni militari attraverso bombardamenti mirati. Parleremo anche, inevitabile, del Royal Wedding. Londra è impazzita per le nozze di William e Kate. E partiamo, come detto, dai disordini in Siria. I governi di Italia, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna hanno deciso una convocazione coordinata degli ambasciatori della Siria accreditati nei loro rispettivi paesi. Si tratta della prima mossa ufficiale dei governi dell'Unione Europea dopo la sollecitazione della Francia ai partner europei all'ONU affinché prenda misure forti contro la repressione a Damasco. Repressione che continua violenta. Secondo le organizzazioni umanitarie sale a 453 il numero delle vittime. È questo l'unico genere di documentazione audio-video che arriva dalla Siria in questi giorni. Video amatoriali di cori e spari. I giornalisti stranieri infatti sono stati quasi tutti allontanati, soprattutto dalle aree calde del sud come quella di Dara, dove da oltre un mese la popolazione manifesta chiedendo riforme radicali e dove la repressione è stata durissima, condotta con carri armati ed elicotteri al prezzo di centinaia di vite. Questo visto da Occidente però. Visto da Damasco, a Daraa è in corso un'operazione militare invocata anche dalla popolazione contro pericolosi terroristi, alcuni dei quali sono stati catturati e hanno confessato di aver ricevuto armi e denaro per intraprendere una jihad contro i sionisti. A New York, dove si studia un documento di condanna delle violenze in Siria, l'ambasciatrice americana all'ONU, Rice, non ha dubbi nell'accusare il presidente Bashar al-Assad, che appartiene alla minoranza alawita, ma pur sempre sciita, di affidarsi all'Iran per reprimere il dissenso. A Teheran, l'IRIB, la radiotelevisione nazionale, non giudica che gli eventi in Siria possano finire nella sezione intitolata Risveglio islamico, come accade invece per le rivolte in Yemen, Bahrain, Egitto e Libia. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani della decisione del governo italiano di rispondere alle richieste della NATO di un maggior coinvolgimento in Libia e di partecipare dunque ai bombardamenti contro Gheddafi, i ministri degli esteri e della difesa italiani hanno riferito sulla crisi libica alle commissioni di Camera e Senato. Non possiamo tirarci indietro, ha detto Franco Frattini, spiegando: o colpiamo con singole azioni aeree mirate o lasciamo consapevolmente uccidere civili. 8 caccia italiani sui 12 messi complessivamente a disposizione della NATO, ha spiegato invece Ignazio La Russa, potranno effettuare i bombardamenti mirati sulla Libia. 4 Tornado potranno essere impiegati in configurazione AIDS con capacità di impiegare sistemi di armamento di precisione per azioni contro obiettivi militari selezionati o anche per compiti di semplice ricognizione. I 4 AV-8 Plus imbarcati su nave Garibaldi potranno all'occorrenza essere anch'essi equipaggiati con armamento di precisione per azioni contro obiettivi militari selezionati. L'avvio concreto di questa nuova fase prende proprio il via con questa mia comunicazione al Parlamento. Ad Alba, in Piemonte, i funerali di Pietro Ferrero, l'erede del colosso dolciario, morto a 48 anni per un malore. L'inviato è Nino Ciravegna. Tutta la città si è mobilitata, tutto i lavoratori, i dipendenti hanno voluto partecipare, tutte le aziende hanno concesso il permesso ai loro dipendenti di partecipare ai funerali di Pietro, che è stato, che era molto amato dalla città e dai dipendenti della Ferrero. È stata una cerimonia molto commovente di una città che si è proprio chiusa nel dolore. Tutti i negozi hanno esposto una fotografia di Pietro Ferrero con lo slogan "Siamo sempre con noi", e tutti gli edifici pubblici sono chiusi, tutti hanno partecipato, si parla di 30.000 persone in una città che ne ha poco più di 30.000, ci sono stati 100 sindaci con la fascia tricolore, c'era il Presidente della Repubblica, ministri come Calderoli e Frattini, la regina del Belgio, Paola di Liegi, ma soprattutto c'era moltissima gente ed è stata una straordinaria dimostrazione di affetto della capitale delle Langhe verso questo imprenditore appassionato ciclista e appassionato anche di opere sociali, che è morto in Sudafrica dove era andato per inaugurare un'impresa sociale in una zona particolarmente difficile. Ora, come sempre, l'andamento delle borse europee. Chiusura in rialzo per le borse europee, in fibrillazione nell'attesa delle indicazioni sull'economia americana del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Milano ha vantato la performance migliore grazie al sostegno delle banche. Il FTSE MIB è salito dell'1,39%. È andata giù ST, risentendo della delusione per i conti, nonostante l'utile netto sia più che triplicato rispetto all'anno scorso. Hanno registrato un lieve calo le Parmalat all'indomani dell'OPA di Lactalis. Eni ha messo a segno un progresso dell'1,8% nel giorno in cui la compagnia petrolifera ha annunciato di aver archiviato il primo trimestre 2011 con un utile netto di 2,55 miliardi di euro, in crescita del 14,6%. Il numero uno del gruppo, Paolo Scaroni, ha inoltre fornito rassicurazioni, asserendo che, nonostante le incertezze sui tempi di ripresa delle nostre attività in Libia, le prospettive di redditività e di crescita di Eni rimangono positive. Si sono risvegliate le Fiat Industrial, più 2,3%, dopo l'annuncio che la controllata CNH aprirà un sito produttivo in Argentina. Per contro, hanno perso punti le Fiat SPA, meno 0,49%, dopo la corsa delle ultime sedute. Fuori dal paniere principale, infine, le Marcoline sono volate del 12% nell'attesa dell'assemblea dei soci. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Berlino prende tempo sulla candidatura del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi al vertice della Banca Centrale Europea. Il futuro presidente della BCE sarà nominato solo con il consenso della Germania, ha affermato il portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha declinato ogni commento sul sostegno ufficiale al banchiere italiano espresso martedì a Roma in diretta televisiva dal presidente francese Sarkozy. Ci trasferiamo a Londra, tutto pronto ormai per il Royal Wedding. Mentre si percorre Victoria Street, solo una lunghissima fila di transenne anticipa per ora quella che sarà la buffata mediatica dal Royal Wedding, perché di fronte a Westminster Abbey è già un delirio di gente che si assiepa sui palchi davanti alla cattedrale. I giornalisti preparano le dirette, i cameraman cercano l'inquadratura migliore. Le prove generali sono scattate anche per i ritardatari, mentre con la tendina c'è già chi si prepara per le notti d'attesa in vista dell'arrivo di William e Kate. E pazienza se per i reali che saranno presenti tutto il resto, cioè chi non è coronato, ovvero il mondo intero, è solo un indistinto magma di commoner o poco più. Molti fra i sudditi di Sua Maestà non si perderanno l'appuntamento neanche per niente, per cui le britanniche ore d'attesa non sono che un semplice incomodo. L'importante sarà esserci, con in mano la Union Flag e il cappello d'ordinanza. Vestito con una maglietta dedicata a Will e Kate, con su scritto Diana sarebbe orgogliosa, il 56enne John è il primo arrivato ed ha intenzione di dormire qui fino al giorno dopo le nozze. Quanto ai cappelli, anche gli spettatori che seguiranno l'evento sui megaschermi a Trafalgar Square e a The Park sono stati esortati a vestirsi bene e indossarli, come se si trovassero anche loro all'interno della chiesa. Vendere almeno il sogno è il vero imperativo di casa Windsor. Per brindare agli sposi, poi torta nuziale e champagne saranno in vendita dalle bancarelle. Per il resto della festa basterà recarsi in qualsiasi Sainsbury o negozietto d'angolo. L'immancabile confezione di latta con la foto dei promessi, questa sì, regna già dovunque, mentre Londra, in perfetto stile understatement, ancora aspetta, rivestendo le ultime vetrine all'insegna della un po' patriottica e molto kitsch effigie dei reali piccioncini, che in modo inquietante guardano da ogni dove. Stefano Biolchini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Riguarda anche tutta Europa l'allarme sul grande network della Sony che collega milioni di PlayStation in tutto il mondo. Alcuni hacker potrebbero aver rubato i numeri di carta di credito degli utenti. Il servizio. Dal 20 aprile sono bloccati i servizi del PlayStation Network che permettono a 77 milioni di utenti nel mondo di videogiocare attraverso internet con altri giocatori di PlayStation. La causa è l'attacco di pirati informatici dai contorni non ancora chiari messo a segno tra il 17 e il 19 aprile. Gli hacker avrebbero messo gli occhi su su nomi, indirizzi di posta elettronica, date di nascita, password e user utilizzate nel network e nelle ultime ore la Sony ha ammesso che non è escluso che nella lista di credenziali rubate ci siano anche i numeri di carta di credito che ogni utente fornisce al momento dell'iscrizione, ma non il codice di sicurezza stampato sulla carta. In ogni caso, prima di confermarlo, Sony sta indagando assieme ad una società specializzata in sicurezza informatica e fornirà ulteriori particolari attraverso il blog del PlayStation Network o direttamente via mail a tutti i clienti iscritti. Il blocco e il possibile furto di credenziali riguarda anche il servizio Curiosity, che permette di acquistare film o ascoltare musica online. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'occasione per far meglio capire quanto Europa serva oggi. E questo, secondo il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, il senso del Festival d'Europa che si terrà a Firenze dal 6 al 10 maggio. Decine gli eventi, oltre 70 tra dibattiti, tavole rotonde, spettacoli, nel cuore della città che diventerà per 5 giorni una delle capitali d'Europa. Era questa la nostra ultima notizia. 24 ore in Europa torna domani. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.